24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Borse, un'altra giornata di bufera sui listini continentali, Milano chiude a meno 2, Barroso assicura, dalla crisi l'Europa uscirà più forte. Il Nord Stream, il gasdotto della discordia, ha cominciato a pompare per la prima volta dalla Russia alla Germania via Mar Baltico, secondo Putin è l'inizio di una nuova stagione. Vecchio continente unito di sicuro nei libri, al Festival della Letteratura di Mantova autori internazionali e un vocabolario europeo. Bentrovati da Roberta Pellegatta ad una nuova edizione di 24 ore in Europa. In apertura la giornata in borsa, nuova chiusura in rosso per i listini europei. Ancora una chiusura pesante per le borse europee con l'eccezione di Londra e soprattutto di Zurigo, quest'ultima balzata in avanti di oltre il 4% dopo il blitz della banca centrale svizzera sul franco. Milano ha registrato la performance peggiore, penalizzata dall'incertezza sulla manovra economica. Il FTSE MIB è sceso dell'1,98%. Sono andate male le banche, in buona compagnia con Fiat SPA, meno 3,87%, Fiat Industrial, meno 5,4% ed Exor meno 6,5%. È stata ancora una seduta difficile per le azioni del settore assicurativo come Generali meno 2,6% e Fonsai meno 3,4%. Telecom è scivolata del 3%. Per contro hanno rialzato la testa le Luxottica più 1,98%, beneficiando della prospettiva che il settore della moda continuerà a salire nel corso del 2011, anche se non a passo di carica. La Camera della Moda ha tagliato le stime sull'andamento del giro d'affari dell'esercizio in corso, portandole dal più 8 al più 4%. Le stime di crescita per il settore hanno però spinto all'insù anche Tod's più 0,4% ed AEF più 6,3%, ma non sono state di conforto a Marcolin, precipitata del 10%. Eleonora Micheli da Radio Core per Radio 24, il Sole 24 Ore. L'Europa uscirà più forte dalla crisi attuale nella zona euro. Lo stima il presidente della Commissione europea Barroso, che si dice assolutamente certo che l'euro sopravviverà. Penso che l'Europa uscirà da questa crisi più forte, perché ora tutti, a sinistra e a destra, sono d'accordo nell'affermare che abbiamo bisogno di riforme strutturali per diventare più competitivi. Intanto la Spagna si dichiara preoccupata per l'incapacità dell'Italia e della Grecia di centrare i propri obiettivi per ridurre il deficit. Secondo il portavoce del governo di Madrid, José Blanco, la Spagna ha invece previsto il momento difficile e preso le decisioni per non essere travolta, mentre Grecia e Italia non hanno un piano di rigore. Dal canto suo, il presidente Sarkozy, sempre ieri, ha vantato la situazione della Francia, che resiste meglio, ha dichiarato, di altri paesi. Sarkozy ai lavoratori francesi ha detto: immaginate quale sarebbe la vostra reazione se la Francia fosse nella situazione della Grecia, del Portogallo, della Spagna, dell'Italia o degli Stati Uniti. E proprio in Italia si discutono le misure di rigore per affrontare la crisi, tra queste la questione dell'illecito fiscale. Come funziona negli altri paesi d'Europa? Sentiamo. In Italia si discutono sanzioni più severe per gli evasori fiscali, ma in Europa e nel resto del mondo la responsabilità penale per i reati tributari esiste da tempo. In Francia, per i reati di frodi di IVA, occultamento di utili e abuso del diritto, è prevista la reclusione fino a 5 anni, a prescindere dall'importo evaso, che invece viene preso in considerazione in caso di omissione dei redditi, da 6 mesi a 3 anni di carcere. In Germania la mancata dichiarazione o l'occultamento o l'omissione del versamento dei redditi è punita con la reclusione fino a 5 anni, ma se a commettere il reato è un professionista o un'organizzazione criminale si va da 1 a 10 anni. Lo Stato tedesco prevede, oltre alle sanzioni penali, anche quelle pecuniarie e l'evasore può versare una somma pari a un massimo di 360 volte il suo reddito medio giornaliero. Se le regole tedesche sembrano dure, in Svizzera chi evade il fisco rischia fino a 20 anni di carcere. Anche in Grecia le sanzioni sono severe: chiusura degli esercizi commerciali per 2 anni in caso di omesso rilascio di ricevute e scontrini fiscali per un importo fino a 500.000 euro, fino a 10 anni di reclusione per la tenuta irregolare dei libri contabili. Infine, gli Stati Uniti. Qui l'omessa dichiarazione dei redditi è reato e l'evasore rischia dai 25.000 ai 100.000 dollari di multa e la reclusione fino a 5 anni. Barbara D'Amico, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Erdogan ha annunciato la sospensione totale dei rapporti militari e commerciali della Turchia con Israele. Il commento di Ugo Tramballi. Niente da fare, la Turchia non molla la presa. Fino a quando Israele non si scuserà per i morti della flottiglia che l'anno scorso voleva raggiungere Gaza, e Israele non ha intenzione di farlo, Ankara continuerà a congelare le relazioni, ogni giorno di più. L'ultima decisione è il boicottaggio commerciale, solo degli scambi militari, precisa il premier Erdogan, ma quello militare da solo è più della metà dell'interscambio fra i due paesi. Alleati di entrambi, gli Stati Uniti stanno cercando di smussare la polemica fra Israele e Turchia, ma è una mediazione blanda e poco convinta. Lasciando il Pentagono, l'ex segretario della difesa Bob Gates se ne va invece con un giudizio piuttosto pesante. Israele, dice, si è dimostrato ingrato verso l'alleato americano e i suoi sforzi di pace, e Bibi Netanyahu, il primo ministro israeliano, è un pericolo per il suo stesso paese. Ugo Tramballi, Radio 24, Sole 24 Ore. È operativo da ieri il Nord Stream, il gasdotto controllato da Gazprom, che unisce i grandi giacimenti russi all'Unione Europea. Tagliare fuori i paesi baltici e la Polonia, imporre la propria politica energetica all'Ucraina, con cui Mosca negli ultimi anni ha inanellato una lunga serie di contenziosi sulle forniture di gas e i diritti di transito, vendere soprattutto gas alla Germania, ma anche a Francia, Regno Unito, Olanda e Belgio, senza intermediari. Il primo ministro russo Vladimir Putin sceglie la conferenza del partito di governo Russia Unita in corso a Cerevopets per annunciare l'apertura ufficiale di Nord Stream e parla di una nuova indipendenza energetica. Lo abbiamo fatto con calma, senza alimentare tensioni, ma liberandoci della dittatura dei paesi di transito. Messaggio chiaro ai vicini litigiosi, ma anche all'Europa e al mondo. Mosca, quando si tratta di affari, è un partner affidabile. Da novembre saremo in grado di distribuire gas all'UE, aggiunge, proprio in tempo per l'inverno. Il Nord Stream lascia la Russia a Vyborg, vicino al confine finlandese, e atterra nel Mecklenburgo, a 200 km da Berlino. 1220 km di tubi capaci di consegnare 27 miliardi di metri cubi di gas l'anno, destinati a raddoppiare già nel 2012, quando sarà ultimato il raddoppio della linea. Gigi Donelli, Radio 24, Sole 24 Ore. Andiamo in Gran Bretagna, dove l'eutanasia resta un crimine, ma non viene perseguito. 30 gli episodi di suicidio assistito finiti negli ultimi 18 mesi davanti ai giudici. Nessuno di essi si è trasformato in un procedimento penale. Eppure la legge britannica vieta l'eutanasia. A consentire ai giudici di agire in questo modo è però il manuale di istruzione diffuso 18 mesi fa dal Director of Public Prosecutions. Se qualcuno mosso da compassione aiuta un'altra persona a morire, si legge, è il chiaro e lucido desiderio a togliersi la vita è facilmente dimostrabile, l'avvio del procedimento penale va considerato improbabile perché non è nel pubblico interesse. Un caso su tutti, Margaret Bateman muore nel West Yorkshire il 20 ottobre 2009. Il marito Michael l'aiutò a mettersi un sacchetto di plastica in testa e a riempirlo di elio, ma la donna soffriva da decenni di dolori cronici e aveva mostrato un inequivocabile desiderio di suicidarsi, si legge nel rapporto. Il marito dunque agì solo per compassione, hanno stabilito i giudici. Dunque, per lui, niente carcere. Maria Piera Ceci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Con le deposizioni dei testimoni si è concluso ieri a Stoccolma il processo nei confronti di Giovanni Colasante, il consigliere comunale di Canosa di Puglia, arrestato e incarcerato per 3 giorni lo scorso agosto nella capitale norvegese con l'accusa di avere picchiato il figlio di 12 anni fuori da un ristorante. La sentenza dovrebbe arrivare in una decina di giorni. Apre oggi la 15ª edizione del Festival della Letteratura di Mantova. Fino all'11 settembre circa 300 gli eventi e quasi 400 gli autori che incontreranno il pubblico nella città lombarda. Grandi nomi da tutto il mondo per un evento legato a doppio filo ai giovani e all'Europa. Marzia Corraini, una delle organizzatrici del Festival della Letteratura di Mantova. Mi piace ricordare che quest'anno oltre 15 anni di festival sono 10 anni di scritture giovani, quella parte del festival che si è sempre occupata degli esordienti europei e che ha avuto un grande risultato. Scritture giovani è nato addirittura con un aiuto della comunità europea e poi ovviamente essendo partito è rimasto a noi, al Festival di Berlino e al Festival di Eonway del Galles, perché questi giovani vengono scelti da ognuno di noi e poi fanno il giro dei vari festival e pubblicano, quest'anno l'argomento è il mare, un racconto in un libro che editiamo noi come festival e che poi regaliamo al pubblico che viene al festival, ma viene anche dato a tutti i più importanti editori europei e quindi li mettiamo, come dire, di fronte alla realtà editoriale. Per ora questa cosa ha molto funzionato. Per quanto riguarda invece anche l'Europa, noi abbiamo qui vocabolario europeo. cioè molti degli autori che sono al festival, da Bjorn Larsson a tantissimi altri, scelgono una parola nella loro lingua e poi la spiegano, e in questi anni si è proprio creato un vero e proprio dizionario europeo che viene pubblicato in piccole pillole tutti gli anni, ma che poi alla fine speriamo possa diventare una grande pubblicazione che unisce attraverso anche le parole meno chiare tutta l'Europa. È tutto per questo appuntamento con 24 ore in Europa. Grazie a Mauro De Angeli in regia, a voi per l'ascolto. Un saluto da Roberta Pellegatta. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.